America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Due paure per gli americani, due paure radicate ormai negli ultimi anni, paure latenti, quella per un attacco terroristico, quella per un disastro ecologico, tutte e due si sono materializzate negli ultimi giorni e dunque si apre per l'America una settimana in cui ci si confronterà con realtà piuttosto difficili. Vi anticipo anche che oggi parleremo dell'apertura dei lavori sulla non proliferazione alle Nazioni Unite, parlerà Ahmadinejad e di un paio di notizie di affari, ma partiamo con le paure degli americani. Vorrei raccontarvelo questo Golfo del Messico travolto da questa macchia inarrestabile di petrolio che lo sta devastando, perché è una zona degli Stati Uniti che raccoglie culture straordinariamente diverse, intanto enorme, ci sono paesaggi, umori, colori totalmente diversi fra loro. Si parte a sud dal Messico, poi si risale arrivando negli Stati Uniti e il Golfo tocca il Texas, la Louisiana, il Mississippi, l'Alabama, fino ad arrivare alla Florida, che lo definisce poi nella parte orientale, e a sud-est infine il Golfo è chiuso da Cuba, quindi culture straordinariamente diverse e l'undicesimo bacino idrico del mondo. E per l'America stiamo parlando di un disastro nazionale su tre fronti, quello ecologico ovviamente, poi c'è il danno economico perché ci sono decine di miliardi di dollari per le economie locali che campano di pesca, ormai è proibita, è stato emesso un ordine che non si potrà più pescare, il turismo ormai impossibile per la rapidità poi con cui questa macchia si sta allargando, perché potrà risalire il corso del Mississippi e inquinare acque dolci, minacciare coltivazioni all'interno del paese, dunque è un danno straordinario sul piano proprio economico e locale. Poi c'è il danno energetico. Barack Obama aveva annunciato non più tardi di alcune settimane fa di voler aprire trivellazioni proprio al largo delle coste americane, quindi nuove piattaforme, e io credo che a questo punto il presidente farà marcia indietro fino a quando non si saprà esattamente che cosa è successo e perché, e dunque dal punto di vista energetico meno possibilità di estrarre greggio, ma anche dal punto di vista politico un problema per il presidente Obama, che aveva cercato di imporre una svolta a destra. Sentiamolo comunque. I want to emphasize, from day one, we have prepared and planned for the worst, even as we hoped for the best. Speravamo nella soluzione più facile, migliore, ha detto Barack Obama, ma ci preparavamo anche al peggio. Purtroppo prepararsi al peggio non è stato sbagliato, perché ha detto il presidente proprio peggio di così non poteva andare. Come avete sentito, si è rivolto alla popolazione civile, perché qui, per questo voglio tornare a sottolineare, c'è una tragedia popolare. Il presidente ha detto: non ci fermeremo fino a quando la popolazione locale non potrà tornare alla normalità, al suo lavoro, non potrà essere tranquilla. Ci vorranno purtroppo molte settimane, forse molti mesi. You know, there's been a police security campaign here for years that if you see something, say something. Ecco, se vedete qualcosa, dite qualcosa. Affrontiamo la seconda paura degli americani. Devo dire che vivere a New York significa vivere in continuazione con un retropensiero della possibilità di un attacco terroristico. Lo vediamo ogni giorno per strada. Può succedere in qualunque momento, in una metropolitana, in un cinema, a Times Square, appunto, la zona più vulnerabile, dove ci sono centinaia di migliaia di persone ogni giorno. E dunque, come è possibile fermare un'autobomba qualunque che improvvisamente si getta sulla folla per esplodere? Questo un po' il terrore, la paura con cui i newyorkesi e gli americani peraltro vivono tutti i giorni. Penso agli shopping mall, dove ci sono di nuovo gran quantità di persone. Ebbene, in questa vicenda però c'è una morale molto importante, c'è in fondo la sicurezza che qualche cosa ha funzionato, e alla fine l'unica cosa che può funzionare in una situazione di questo genere è il fattore umano, perché c'è un eroe nella vicenda di Times Square, Lance Orton, questo venditore di t-shirt sulla 45esima strada, ha uno spazio che è riservato ai veterani, è stato lui ad accorgersi che dentro il Pathfinder della Nissan c'era davvero qualcosa di strano, c'era del fumo, il motore acceso, i fanali intermittenti anche loro accesi, e dunque ha avvertito un poliziotto di turno. Lance ovviamente è diventato un personaggio istantaneo, però non ha cercato pubblicità, ha evitato i giornalisti, e quando finalmente le telecamere lo hanno ripreso ha detto soltanto poche parole e ha detto: ma insomma, io certamente ero a disposizione delle autorità, sono un veterano combattuto in Vietnam, non potevo fare diversamente. Poi un consiglio ai newyorkesi, appunto il consiglio di questa campagna, succinto e pieno di saggezza: see something, say something. Quindi se si vede qualcosa, dite qualcosa. Dovremmo pensarci tutti, perché è l'unico modo davvero per proteggerci. Ci sono una gran quantità di telecamere, ormai è chiaro che potrà essere identificato il colpevole, io sono sicuro che le autorità sanno già esattamente chi è e come cercarlo, come trovarlo, perché era stato ripreso. Ma non basta, c'è stata la fortuna di questo Lance che ha visto e che ha detto qualcosa. Ecco, vi avevo anticipato che il leader iraniano Ahmadinejad si trova qui a New York per partecipare alla conferenza sulla non proliferazione. La revisione della conferenza sulla non proliferazione si apre oggi, durerà fino al 28 di maggio. Si potrebbe pensare che è bizzarro che sia proprio lui a venire ad aprire questa conferenza sulla non proliferazione, l'ennesima provocazione che giunge da Teheran. Ma chissà, forse potrebbe anche essere un modo per riaprire il dialogo, per vedere se si riesce ad andare avanti, per evitare appunto che Teheran costruisca una bomba atomica. Vi parleremo nei prossimi giorni certamente anche di questi sviluppi. Dal punto di vista del business, confermata una notizia che avevo anticipato la settimana scorsa: Continental e United Airlines hanno dato l'annuncio della loro fusione, 3 miliardi di dollari, quindi consolidamento che continua nel settore delle linee aeree. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, come abbiamo visto dalle notizie di questo fine settimana, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarle su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, io vorrei dedicarla al Golfo, vorrei dedicarla al Bayou, alle acque che si affacciano sul Golfo del Messico, acque non proprio stagnanti, ma diciamo acque ferme, popolate da pescigatto, da granchi, molluschi, coccodrilli. Sono alle foci del Mississippi, sono posti di grande romanticismo e nostalgia. Ecco, sono questi posti, vi dicevo, che fanno parte della cultura del Golfo del Messico e che oggi sono minacciati. Tutti gli animali di cui vi parlavo rischiano di morire. Sono acque limpide, blu, dove si vuol sempre ritornare, come ci racconta il grandissimo Roy Orbison, appunto in Blue Bayou. Ecco, ho scelto questa canzone scritta nel 1963 da Roy Orbison, ricordiamolo, maestro di altri grandi che lo hanno seguito, come Bruce Springsteen, Billy Joe, i Bee Gees, persino Bob Dylan, come così dimostrazione di solidarietà nei confronti di queste popolazioni del sud degli Stati Uniti colpite da questa macchia di petrolio. Oh, to see my baby again and to be with some of my friends, maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday. Bene, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.